solitudine, la depressione è uguale, vuoto, una questione di anima. Dentro ogni rima, china perfetta troverà rima, danza sul foglio nella mia testa, la rima perfetta, quella che poi nella vita vera si detesta, la solitudine che è il rancore che purtroppo resta, di una festa che ha bruciato anime nella sua cresta, e ora rifarsi tutto da capo è una strada troppo lunga, irta. Fango, vuoi venire a letto con me? Diceva un passero del diavolo. Sì, risposi, ma non una volta, ma per sempre con te. Come se te, vento di Fon, sciogliessi ghiacci d'Alaska ad Antartide, e poi solo maremoto e terremoto nelle mani, poi niente, voi fate. Lui ti picchiava, io te, stata a lui, ora schiavo, ora io mago di psiche, il lago, spero nel giusto, parlo vero, ripagato dal fatto, mistero, sei te, se singolo, libera o piangi, dove trovi amore, dove poi in effetti cadi via e non sai più della vera casa, del ritorno, la via persa dentro, perla in testa, parla bianco assoluto, muto, candor brilla, dove il mondo macchia dicendoti mia, tu libera l'ali, libera vola via, tu libera l'ali e libera vola via, tu libera le ali e vola. Mistero sei te, se singolo, libera o piangi, dove trovi amore, dove poi in effetti cadi via e non sai più della vera casa, del ritorno, la via persa dentro, perla in testa, parla bianco, assoluto, muto, candor brilla di te, dove il mondo macchia dicendoti mia, tu libera l'ali, libera e vola via, tu libera l'ali e libera vola via. Tu libera l'ali e libera vola via, persa dentro, perla in testa, parla bianco assoluto, muto, candor brilla, dove il mondo macchia dicendoti mia, tu libera l'ali e libera vola via, tu libera l'ali, libera vola via, tu libera.